non sveglia, sei sempre tu il mio chiodo fisso. E insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che è un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene, io ti perdo. Solitario, dove sei? Tu che porti a spasso dentro un sacco i sogni miei, ridammeli se puoi. È una notte falsa, troppe stelle che non sai. troppo solitari, cosa fa? Tu che parli spesso dentro il cuore con chi sei, riparlami se vuoi e ascoltami se puoi. Sento qualche cosa che mi brucia dentro, che mi butta via e che non sa che tu, che solo tu, mi fai sentire inutile la vita. Sento tutti insieme i brividi del mondo, quella rabbia che mi fa star male, so che ho per me soltanto l'animale che c'è in te. Niente già ti spa, lupo solitario, tu lo sai, che con un po' di luce scopriresti un'altra in me che non conosci ancora. C'è in me, non chiedermi di più, ma in questa notte brucia un po' anche tu. Sento qualche cosa che mi brucia dentro, che mi butta via e che non sa che tu, che solo tu, mi fai sentire inutile la vita. Cielo

Non esiste voi, si oltrepassa il limite. Magari affogherei se non ci fossi tu a bere le mie lacrime. La nostra fantasia ha una continuità che spezza l'abitudine. Inventati per me, ma tu l'hai fatto già. Questo amore che cos'è? Se ne parla, ma lui è tutto quel che poi si dice. Può rinascere, morire, star male e poi guarire, ma non si avvisa mai. Questo amore che cos'è? È il prato che c'è in te, dove correre la vita, come il mare più profondo, il cielo intorno al mondo, è quello che mi dà. E allora siamo qui, convinti più che mai di essere inscindibili. Ed è per questo che la nostra volontà ha basi irremovibili. Momenti senza età, montagne di allegria, certezze inattaccabili. Inizio sempre io, dove finisci tu? Dietro me mi segnerò nel diario della vita e terrò quei vecchi fatti cuori nel presente mio, di bianco e rosso vestirò. Sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma se occorre come il sole i tuoi sensi accenderò. E piano piano poi li spegnerò, donna con te, di me chissà che sai, donna con te, se tu lo vuoi. Le tue mani su di stanno già forzando la mia serratura, ma la porta del mio cuore all'improvviso si aprirà ed un'altra donna uscirà. Sarà una donna che ritrova la sua femminilità e te la regalerà. Donna che ti sa stupire solo con la sua semplicità, che ti amerà. Cielo su di noi, questa mia età colorala se vuoi, e le notti in bianco e nero quelle le cancello, perché donna io con te sarò. Scoprire che c'è uno strapiombo per noi oltre la montagna. Cosa ci sarà, chissà, oltre la montagna, oltre, è proprio come una montagna sei, che dietro noi cosa c'è, ma voglio ancora immaginare che verdi pianure potrei trovare io. Io che nascondo la mia gelosia, sapere di te, vorrei sapere di più, ma c'è qualcosa che poi potresti chiedermi tu, e allora io non vorrei, non vorrei dire di più, tu sei la mia libertà, tu sei la mia salute. Oh, tu che nel buio prendi quanto vuoi, le tue mani che vanno proprio dove io vorrei, sono fonte dei brividi miei. Sei tu che mi guidi col tuo battito, sei tu che mi induci a un dolce attimo. Tra di noi c'è uno strano feeling che ci lega ormai, tra di noi c'è magia e lo sai. Se tu vuoi puoi inventarmi come me, io credi tu. Se tu vuoi puoi avere di più, pensami per te come fossi il frutto di un'idea che dal niente si crea così. Se tu vuoi puoi sognarmi nelle notti che sei solo, già lo sai il mio ruolo qual è, pensami per te, gioca un po' con me, ormai ci sei, vola via mentre volo con te, solo con te. Sono quelle che si dicono, meno ancora sono quelle che si fanno, sai perché? Essere veri poi facile non è. Ehi, non lasciare che il respiro cada giù, se tu vuoi posso darti di più, pensami per te nei momenti che non sai perché hai bisogno di stare un po' con me. Se tu vuoi puoi sognarmi anche quando sei con me, già lo sai il segreto qual è, pensami per te, gioca un po' con me, ormai ci sei, vola via mentre volo con te. Gioca un po' con me, ormai ci sei, vola via mentre volo con te, vola più in alto che c'è. Sei tu che stasera rubi l'anima, sei tu che stasera prendi quanto vuoi, le tue mani che vanno proprio dove io vorrei, vola via mentre volo con te, vola più in alto che c'è. Pensami per te, resterò come ora tu mi vedi, tu che mi guardi oggi come mi hai vista ieri, hai conosciuto gli attimi segreti da bambina che per sentirsi donna si dipingeva gli occhi anticipandosi il destino. chissà se sei d'accordo su queste calze nere, oppure sei gelosa di chi può volermi bene. Per me sei sempre il pozzo dove attingere un sorriso, la dolce tenerezza che spunta da una ruga dipinta sul tuo viso. E tu che cercavi il sole in ogni storia mia per smaltire il freddo della nostalgia. Sei stata madre.